In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro, mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Questo brano oggi mi ha fatto pensare. Ma come si sarà sentita la Madonna quando ha ascoltato quanto gli hanno riferito che Gesù ha detto, mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica? Non lo so, io penserei, inizialmente pensavo, sicuramente non mi sembra tanto bello che Gesù dica così, che praticamente qualunque persona può essere sua madre, cioè qualunque persona se ascolta la parola di Dio e la mette in pratica è come Maria, come fossi nella Madonna, forse mi sentirei un po' offesa, ho pensato inizialmente, ma poi invece ho capito che sicuramente invece Maria ha visto tutto questo come un complimento rivolto anche a lei. Perché? Perché sicuramente Maria ha ascoltato la parola di Dio e l'ha messa in pratica meglio di qualunque altra persona. E perché Maria veramente è stata sempre fedele al Signore. Allora oggi il Signore ci dà un compito molto, molto grande, molto elevato. Addirittura noi possiamo generare Gesù. Pensate, possiamo anche noi generare Gesù, perché pensate, qui dicono a Gesù, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti, perché sappiamo che Gesù stava spesso nelle sinagoghe, parlava, insegnava, e qui dice che addirittura la mamma di Gesù e i suoi fratelli, fratelli si intende non i fratelli di sangue ma cugini, non potevano avvicinarla a causa della folla. Quindi Gesù sicuramente era circondato da tantissime persone che accorrevano a lui perché aveva una parola diversa, aveva una parola attraente, una parola che anche oggi ci attira, anche oggi ci dice tante cose molto belle, che difficili, ma nello stesso tempo affascinanti e belle. Quindi tanta gente lo seguiva. E la madre e i fratelli stavano fuori e non potevano entrare, ma desideravano vederlo. E lui risponde in questa maniera, mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Allora oggi chiediamoci, ma io sto generando Gesù? E che cosa vuol dire sto generando Gesù? Vuol dire sto ascoltando la parola di Dio e la sto mettendo in pratica? Ecco, questi due verbi il Signore ci sta dicendo, suggerendo oggi, ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. Ascoltare. Io quando ascolto la parola di Dio? Ascoltare, per poterla ascoltare, per poter ascoltare qualcuno bisogna che qualcuno parli. E il Signore quando parla? Il Signore ci parla sempre, in continuazione. Parla attraverso gli eventi, parla attraverso la nostra vita, parla attraverso le persone che incontriamo, parla nella sua parola, nel Vangelo. Quindi parla, dovremmo cercare di focalizzare la nostra attenzione sulle parole che il Signore ci dice ogni giorno. E poi però non basta ascoltare la parola di Dio, bisogna passare all'azione. E di solito noi diciamo tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma invece tra il dire e il fare c'è di mezzo il pregare e c'è di mezzo il cominciare. Quindi non ci scoraggiamo, andiamo sempre avanti. E anche noi vorremmo, alla fine della nostra vita, sentire questo elogio che ha sentito Maria. Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Buona giornata.